a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e il Blu Radio Veneto. Nuovo appuntamento con A Regola d'Arte, benvenuti, bentrovati da Francesco Galante. Oggi parliamo di un premio, il premio Renato Luise. Ho con me al telefono il presidente del mandamento di conselve dell'Unione Provinciale Artigiani ed è Francesco Pastò, bentrovato. Sì, buongiorno, grazie a lei. Eccoci qua, allora parliamo di questo premio, premio Luise, che avete istituito. C'è stata proprio la premiazione giovedì 9 giugno, la premiazione a dei ragazzi. Esattamente, è stata un'iniziativa che secondo me è riuscita benissimo, perché ho visto un grande entusiasmo da parte di tutti gli studenti e anche di tutti i partecipanti che erano presenti alla premiazione. Il progetto è stato fatto subito dopo la scomparsa del mio predecessore Renato Luise, con una convinzione da parte del nostro mandamento e dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova, che ci hanno dato subito il consenso di portare avanti questo progetto. Sì. Quindi è scomparso il presidente precedente, Renato Luise, voi avete pensato di istituire questo premio per ricordarlo. Sì, di onorarlo, sì. Ecco, qual è il progetto rivolto ai ragazzi? Il progetto è stato basato proprio con lo scopo di trasmettere ai ragazzi delle competenze e delle tecniche del mondo artigiano, perché stiamo facendo una grande azione di sviluppo con l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, che sta promuovendo ed elaborando svariati progetti riguardanti l'artigianato e le scuole, perché solo in questo modo si può raggiungere un obiettivo di unire il lavoro con gli istituti scolastici per avere un risultato e cercando di portare a buon fine di creare maestranze di veri professionisti. Certo, quindi unire il mondo del lavoro con la scuola per cercare di far sì che i ragazzi poi appena usciti dalla scuola possano già avere delle competenze, no? per entrare nel mondo del lavoro. Sì. E quindi cosa si chiedeva ai ragazzi? Di realizzare che cosa? Un artigiano ha dato disposizione alle scuole per sviluppare un progetto che è stato l'artigiano a pensarlo, a sottoscriverlo e a pensarlo, e farlo portare avanti con la partecipazione degli studenti, naturalmente anche dei professori, no? Certo, e quindi giovedì 9 giugno avete dato i premi, è stata la quarta classe dell'Istituto Cattaneo Mattei di Conselve a ricevere il primo premio. C'era una donazione in denaro, un tablet per utilizzarlo per l'attività scolastica. Sì, e secondo sempre un premio in denaro e un tablet, e anche terza classificato, diciamo, del progetto, sempre un premio in denaro e un tablet. Certo. E gli studenti sono stati entusiasti, perché posso dire che ho visto proprio una gioia, una felicità di aver raggiunto un obiettivo, perché trasformare un'idea che possa essere toccata e che si possa vedere è una cosa molto fondamentale per i ragazzi, no? Eh sì, riuscire a realizzare da un progetto su carta qualcosa di fisico, sicuramente c'è, esatto, una soddisfazione. E me lo può dire che cosa hanno realizzato nello specifico? Allora, il primo classificato hanno realizzato un piccolo impianto idroelettrico funzionante con una pala rotativa da installare su una canaletta dove c'è l'acqua corrente, dove scorre dell'acqua. L'acqua corrente fa muovere, diciamo, una specie di mulino e mette in moto a un generatore di energia elettrica. Che il primo progetto è stato dato dal nostro artigiano Walter Negrisolo dell'officina NEMAG di Conselve. Certo. Questi ragazzi hanno portato a termine il progetto con uno studio, con disegni, hanno portato a termine anche la costruzione di questo manufatto e hanno fatto anche un piccolo business plan di costi, ricavi, spese, cioè hanno creato un qualcosa di completo, cioè l'idea è stata portata a termine con un progetto realizzato in tutte le sue fasi. Certo, quindi... idea, progettazione, costruzione e anche marketing e business plan. Beh, sicuramente una bella iniziativa che permette ai ragazzi che studiano di scoprire poi come sono le fasi del lavoro una volta usciti dalla scuola. Ci fermiamo per pochi minuti di musica, poi torniamo ancora a parlare del premio Renato Luise. I'm reading through the Sunday paper and it's all bad news. I'm looking for a smile on the streets, but it's just no use. Sing with me now. Regola d'arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con A Regola d'arte, vi stiamo raccontando il premio Renato Luise, che è stato istituito dopo la morte del presidente Luise dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Il presidente dell'Unione Provinciale Artigiani, Roberto Boschetto, ha detto: abbiamo voluto proporre un'iniziativa che rispettasse lo spirito di Renato, un uomo pragmatico e concreto, sempre impegnato in prima linea per lo sviluppo dell'artigianato nel territorio del Conselvano. È nata così l'idea di organizzare un'iniziativa che desse l'opportunità agli studenti degli istituti della zona di mettersi alla prova con un vero progetto imprenditoriale. Ne stiamo parlando col presidente del mandamento di Conselve, Francesco Pastò. Abbiamo abbiamo raccontato il progetto che è arrivato per primo, raccontiamo anche i due lavori, i due progetti che sono arrivati secondi e terzi. Il secondo è stato dato come commessa da Mila Vidi Ispezioni e dovevano costruire un barchino, si chiamava proprio progetto barchino, perché la Mila Vidi Ispezioni è anche munita di un drone. Loro vogliono fare un monitoraggio dei fiumi, sì. Per cui volevano mettere assieme il drone che sorvola i fiumi o i canali o le aree, non so, paludose dove ci possono essere dei bacini d'acqua, e mettere in comunicazione un barchino dotato di ecoscandaglio e telecamera per fare un monitoraggio anche delle sponde dei fiumi e del fondo, naturalmente dialogando con un sistema di software con il drone. E ora il drone sorvola l'area e il barchino dentro nell'acqua fa un monitoraggio del fiume e del canale. Beh, è un bel sistema quasi automatico, insomma, di rilevazione dei dati. E quindi questo secondo premio è andato alla classe terza del settore meccanico della CFP ENAIP di Conselve. Perfetto, sì. Poi terzi, allora, un'altra classe terza, sempre dell'ENAIP di Conselve, però questa volta del settore vendite. Che cosa hanno realizzato? Settore vendite hanno realizzato una vetrina di un negozio che è stata data a disposizione dalla signora Diva Marina Diaz del negozio Fiesta Magica. Praticamente hanno creato una vetrina di abbigliamento, di bigiotteria, fatta solo di palloncini gonfiabili. E hanno realizzato una specie di, diciamo, spiaggia con la palma, i pesci, hanno ricreato un ambiente, diciamo, turistico estivo, balneare. A me è piaciuto e comunque in ogni caso è stato portato a termine questo progetto. Belle iniziative sicuramente che sviluppano anche l'idea, la creatività, soprattutto nel settore marketing, immagino, certo. È necessaria. Vi ricordo che ci hanno aiutato per portare a termine questo progetto le distillerie Bonollo di Conselve, la banca Annia di Cartura e le assicurazioni generali di Conselve, nonché anche l'Unione Artigiane di Padova, che hanno dato anche loro un premio. Vorrei ricordare un attimo che il premio continuerà ad agosto nella fiera di Sant'Agostino, dove ci sarà uno stand dedicato a questo premio, dove verranno mostrate foto, diapositive e filmati e anche i lavori, se si riesce, anche dal vero, o se no solamente con foto. Bene, ringraziamo allora il presidente del mandamento di Conselve dell'Unione Provinciale Artigiani, Francesco Pastò, per essere stato con noi. Grazie a lei, signor Galante. Tra poco chiudiamo l'appuntamento di A Regola d'Arte e dato che il nostro ospite poc'anzi ha parlato della Fiera di Sant'Agostino, vi ricordo che sono aperte le adesioni all'iniziativa organizzata nell'ambito della Fiera di Sant'Agostino. Si tiene dal 26 agosto al 4 settembre la 36esima mostra dell'artigianato, l'area espositiva che ogni anno viene allestita all'interno dell'antica Fiera di Sant'Agostino a Conselve. Per poter esporre è necessario compilare ed inviare la scheda di adesione pubblicata sul sito dell'Unione Provinciale Artigiani all'indirizzo www.upa.padova.it. A questo indirizzo trovate anche numerose altre informazioni. Ed è tutto, la nostra puntata termina qui, A Regola d'Arte ritorna la settimana prossima, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto a tutti da Francesco Galante. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.